darsi nota per interventi, già può prepararsi perché finita l'esposizione cominciamo subito. Penserei che verso le 6:30, 6:15 concludiamo, ovvero la nostra riunione, per lasciare un po' di respiro per la cucina. Sì. Lo spirito filosofico non porta a dover prolungare la discussione tanto da compromettere l'ora della cena. Vedremo strada facendo. Questo penso a lei. Grazie, Bussino, grazie. Ja, meine Auslegung ist etwas anderes als die Auslegung von unserem Präsident. Der hat mehr, so, ich vermute mehr, so diese ethische Punkt unterstrichen. Ich habe lieber die ontologische Aussicht, nicht? Aber in verschiedenen Thesen sind wir eins. Ja, devo scusarmi perché sarebbe meglio che parlasse Riconda e Miri, che sono quelli che hanno lavorato moltissimo in Italia su Schopenhauer, no? Perché io incomincio adesso, cioè il mio amore da Heidegger e Nietzsche passa anche a Schopenhauer, però i nostri maestri sono qui due, perciò devo scusarmi che parlo. No, è vero. Allora, tesi generale. Sono appunti, direi, non c'è ancora. Sono appunti che ho fatto. Tesi generali. Per mettere in luce la dimensione ontologica del sacro, ritengo fondamentale la tematica della libertà. A mio avviso, il rapporto tra sacralità e libertà è a livello intrinseco. Also, ich spreche nicht über den Heiligen, aber über das Heilige. Tesi particolare. Sotto questo aspetto, prendo in considerazione Schopenhauer. A tale scopo, prende in considerazione il Preisschrift über die Freiheit des Willens e come sfondo tengo presente die Welt als Wille und Vorstellung. Ritengo ora opportuno, per chiarire la tematica dello scritto sulla libertà del volere, tenere presente lo scritto di Fichte Bestimmung des Menschen. Cioè, ho trovato una certa affinità leggendo questo scritto sulla libertà del volere di Schopenhauer, ho trovato una profonda affinità con uno scritto nel 1800, quindi perciò 40 anni prima circa, quello di Fichte, Bestimmung des Menschen, Bestimmung, cioè praticamente indica quasi un senso del destino, no? Come l'uomo è destinato a, più o meno, no? Allora, Fichte e Schopenhauer si muovono in un terreno kantiano. Per loro rimane fondamentale, questo lo sappiamo, la distinzione kantiana tra mondo fenomenico e mondo intelligibile, messo a fuoco da idealismo gnoseologico. Sottolineo idealismo gnoseologico perché il mondo intelligibile viene letto da Schopenhauer in senso ontologico. Grazie a questa distinzione vengono chiariti in modo nuovo i momenti fondamentali della religione e della mistica, quindi idee di Dio, di libertà, e l'idea di immortalità. Si possono notare in questi due pensatori punti di contatto notevole, ecco quello che ho trovato Fichte e Schopenhauer. No? L'io individuale di Fichte reagisce con orrore, Entsetzen, dice lui, no? Di fronte alla ferrea connessione naturale, quindi sembra quasi del Satz von Grund, il principio di individuazione di Schopenhauer, no? Questa contro questa ferrea connessione naturale, così come viene mostrato dal Verstand, dall'intelletto. Di qui il contrasto tra ciò che l'io stesso esige e la struttura del mondo della natura. Ecco il punto, no? Questo, quello che l'io esige è stato dato sempre, anche qui, un'interpretazione nei vari commentatori di Fichte, in senso etico. Non è vero. L'io esige una freie Selbstbestimmung, grazie alla quale vuole sentirsi il signore della natura. Ecco il contrasto. L'io constata dalla conoscenza del mondo, così come viene mostrato dal Verstand, come la sua connessione con la totalità della natura e ciò che determina il suo io, ciò che fui, ciò che sono e ciò che sarà. Frasi note in Nietzsche che ritornano un sacco di volte in Zarathustra. L'io che sono e divengo in modo necessario ed è impossibile che io sia qualcosa d'altro. A questo punto si può notare un'ulteriore affinità di fondo tra Fichte e Schopenhauer nel processo di liberazione. Perciò, punto di partenza, Fichte e Schopenhauer sono molto, direi, quasi simili, no? Cioè quel senso di superare quella natura che ci chiude. E allora praticamente, secondo punto, lo stesso, tutti e due tendono a un processo di liberazione da questa necessità per il mondo della natura. In questo iter di liberazione, un primo passo è dato per Fichte dalla considerazione che la coscienza di una cosa non è altro che il prodotto della nostra facoltà conoscitiva. Questo direi quasi è uno scamotage, se Fichte si eleva, praticamente per scappare via da questo senso coercitivo delle leggi della natura, allora dice la natura è prodotto della nostra facoltà conoscitiva. Questa considerazione fa venire meno la necessità attorno a noi, perché in fondo tutto ciò di cui sento, di cui devo dipendere, si muta in nulla. Ciò perché si tratta in fondo di bilder, immagini, e io stesso sono un'immagine tra queste immagini. A questo Wissen segue uno più fondamentale, quindi questo è il primo passo. Secondo passo è più fondamentale. Allora questo non è più un Wissen, ma lo chiama Trieb, proprio una forza. Trieb zu absoluter unabhängiger Selbstständigkeit. Ecco il fatto. Questa proprio assoluta autoattività che deve essere completamente indipendente. Non è più un Wissen, ma un Trieb. Io direi tra Wissen e Trieb è il primo passo anche in Schopenhauer. No? Fichte dice che non si tratta di Bewusstsein, ma di Selbstbewusstsein. Io ci tengo a, perché dopo vedremo che Schopenhauer distingue coscienza latina e dice che non è il Gewissen kantiano della ragione pratica, ma è il Bewusstsein, perché il Gewissen appartiene al mondo etico. Allora Fichte, prima di Schopenhauer, sottolinea anche lui non Gewissen alla Kant, ma Bewusstsein, non solo Bewusstsein, ma Selbstbewusstsein, che dopo vedremo che è molto importanza per Schopenhauer. Non solo questo, ma questo Selbstbewusstsein che caratteri ha? Primo, è immediato ed è sentito, feeling, gefühlt. E qui praticamente Schleiermacher, cioè il Gefühl, quando noi parliamo sempre del sentimento religioso di Schleiermacher, diciamo il Gefühl, il sentimento. Non è vero, questo Gefühl è ontologico per Schleiermacher. Però pure a questo immediato conoscere si apre la possibilità dello scetticismo. E allora a questo segue, secondo sempre Fichte, un ulteriore atto di liberazione, e questo è molto interessante, cioè la Entscheidung, cioè la decisione. Allora alla fine arriva non più il Wissen, questo libero, ci vuole la decisione, entriamo già nel campo della volontà, che si chiarisce come essere obbediente alla voce interna. Questo è bellissimo, praticamente dopo Schopenhauer dirà, riprenderà la Gelassenheit proprio nell'opera fondamentale nel paragrafo 63, che è lo stesso, no? E quindi essere obbediente alla voce interna. Tale decisione, che è atto della volontà, viene definito da Fichte Bestimmung, in Bestimmung des Menschen, come Glauben, fede. L'occorre che vi dica praticamente, cioè, sono delle frasi bellissime, direi, di passi che non posso leggere, che sembrano quasi scritte da Schopenhauer. Questo Glauben sarà ripreso logicamente da Jaspers, che per lui la filosofia è fede filosofica ed è l'ultimo passo del filosofare, è Glauben per Jaspers. Dice Fichte, non è Wissen, ma Entschluss des Willens, das Wissen gelten zu lassen. Cioè, dipende dalla Willen che das Wissen gelten zu lassen. Di qui la conclusione, che la verità di Fichte è aus der Gesinnung, nicht aus dem Verstand. Abbiamo diviso due campi, aus der Gesinnung e non aus dem Verstand. Cioè, Verstand è il mondo della rappresentazione della Vorstellung, Gesinnung è il mondo della volontà. I due piani di Schopenhauer sono già qui. Oppure, Fichte dice, aus der gewissem allein stammt die Wahrheit. Con ciò l'affinità di fondo tra Fichte e Schopenhauer, che l'essenza dell'io è data dal primato della volontà rispetto all'intelletto. I caratteri fondamentali di questa volontà sono l'essere unabhängig, indipendente, e l'essere selbstständig. Schopenhauer dirà di più quello essere vernunftlos, cioè senza intelligenza. Dopo vedremo che in fondo vuol dire unabhängig, dal mondo della volontà, della rappresentazione, che sotto intelletto. In tal modo, nella sua essenza, l'io non si rivela solo come io, individuo finito, ma come ur-ich, io fondamentale. Ora questo ur praticamente assume una dimensione che non è di intelletto ma che è della volontà. Si è di fronte a una Ursprünglichkeit, cioè un'azione originaria, di sich selbst setzen, cioè autoporsi, porre se stesso in atto. Grazie a questo si ha un capovolgimento di piano rispetto alla posizione originaria del rapporto tra io e natura, quella di tipo kantiano, questo prima. L'io non dipende da noi io, ma questo viene considerato solo come schranke, cioè proprio veramente come confine che deve essere superato. Solo da tale bisogno di superamento sorge il mondo reale e non al contrario. Ecco il punto, c'è la supremazia della volontà conosce sul vissero. Quindi noi non agiamo perché conosciamo, interessante Fichte, no? Ma conosciamo perché siamo determinati per agire. Determinati per agire, cioè direi, qui potrei dire subito la distinzione tra Fichte e Schopenhauer. Lui dice determinati per agire perché questa azione originaria dipende da se stesso, dall'io, mentre dice per Schopenhauer siamo determinati per agire, ma siamo buttati quasi. La ragione pratica ha il sopravvento, di cui il senso dell'essere e quindi dell'esistere, che non dipende dalla conoscenza del mondo tipico del Verstand, ma si ha immediatamente come esempio di stimoli. In tal modo il mondo, con la sua connessione di leggi, passa in secondo piano e viene degradato a sfera o a materiale del dovere dell'uomo. Dice Fichte, und absolut nichts anderes. Basta, solo questo. Non ha senso quindi parlare di un mondo migliore tra i mondi possibili. Il mondo diventa migliore solo grazie all'agire dell'uomo. In questo contesto problematico si può notare in Fichte un pathos tipico di una escatologia cristiana delle origini. Non si tratta solo di un romantico zen, cioè tendere, ma di una forderung, proprio di un dovere. Si può vedere in questo dualismo escatologico l'ottimismo etico tipico del protestantesimo e dell'illuminismo. Si sa che Fichte si incammina in questa strada verso il misticismo monistico, però le opere superiori, poste, no? L'attività morale, che tende a un mondo migliore, è l'espressione degli assoluto. Questa attività procede quindi oltre ogni mondo migliore. Si apre in tal modo, in Fichte, una ulteriore domanda. Nel piano del fondamento, questo è interessante, che rompe il limite del mondo empirico, in modo più perfetto questo possa essere concepito, sempre nel mondo migliore, questa scatologia. Ma come mai questa scatologia, dice Fichte? La volontà è troppo forte perché venga presa soltanto dal mondo. La pienezza della decisione della volontà deve spaziare alla fine in un Geisteswelt, ecco il mondo della volontà, un Geisteswelt, e quindi in un ewiges Leben. Si apre così la questione su Dio. È noto che il passaggio dall'io assoluto, da questo un ich a Dio, rivela il mutamento del pensare di Fichte. Sotto questa nuova luce, il conoscere umano viene posto sul piano di docta ignoranzia. Benissimo. L'Offenbarung divino di Dio si rivela alla fine come fedeltà al proprio dovere. Viene così superato il dualismo kantiano tra mondo fenomenico e mondo intelligibile verso un possibile monismo mistico. In questo ambito, il mondo empirico, e questo mi piace sottolineare, viene considerato come Vorhang, il velo di Maya, di Schopenhauer. Il mondo empirico viene considerato come Vorhang, che copre il divino. Bellissimo, sembra Schopenhauer. Solo per colui che perviene al mondo interno, ecco il famoso passaggio della virtù alla scesi di Schopenhauer, solo per colui che perviene al mondo interno, il Vorhang diventa nel mondo terreno dossisti, cioè per essere visto, per essere buttato fuori. Vi è così il fenomeno della Verklärung, la famosa trasformazione di cui Nietzsche parla moltissimo del mondo terreno. Si legge un passo che sembra scritto da Schopenhauer, ma non faccio tempo, ma veloce. Nachdem so mein Herz alle Begier nach dem Irdischen verschlossen ist, nachdem ich in der Tat für das Vergängliche gar kein Herr mehr habe, erscheint meinem Auge das Universum in eine verklärte Gestalt di tote belastende Masse. Quello che Heidegger dirà appunto in autentico sì. Di nuovo der Raum anstopfte, ist verschwunden. Und an ihre Stelle fließt voget und rauscht der ewige Strom von Leben, Kraft und Tat, vom ursprünglichen Leben, sembra quasi Schopenhauer, un nuovo das religiose auge, ecco il punto, questo direi è il punto di affinità più grande, und nur das religiöse auge, solo l'occhio religioso dringt ein, penetra nel regno der wahre Schönheit, della bellezza. Perciò il mondo morale intelligibile della critica della ragion pratica di Kant non è per Fichte l'ultima risposta religiosa alla questione del senso dell'esistenza umana. Vi è il senso del divino, del sacro, che si dischiude nell'ambito dell'immanenza della libertà dell'uomo e non si lascia definire dall'io. Il sacro è ciò che sfugge ogni tentativo di definizione, è ciò che rompe di continuo il limite del non io. Il senso dell'esistere, che si dischiude proprio in questo terreno di mistero, dove vi è una forza originaria, il cui ultimo senso non si esaurisce in un mondo migliore, ma riapre e scova nell'abisso dell'io stesso. Ulteriori riflessioni su questo ambito si possono leggere nello scritto di Fichte del 1806, Anweisung zum seligen Leben, che porta avanti questo problema. Il mondo diventa Verhüllung Gottes. Sembra Schopenhauer, proprio veramente quasi copre Dio. Non possiamo mai vedere Dio, ma solo la sua Hülle. Di qui il rapporto intrinseco tra Verhüllung Gottes e Offenbarung Gottes. C'è quasi Entbergung, Verbergung di Heidegger. Tra Offenbarung Gottes si manifesta una dimensione esistenziale. Tale Offenbarung Gottes si manifesta in una dimensione esistenziale. In questo terreno l'azione etica si converte con l'autentico filosofare. Di qui l'ultima espressione del sacro può essere messa in luce con la stessa parola della filosofia. Filosofare e sacralità del sacro sono posti sullo stesso piano. E qui ci tengo a questa conclusione, che sarà quella stessa che farò vedere per Schopenhauer e quella praticamente anche per Jaspers, cioè il sacro è filosofia, cioè non c'entra neppure la religione, la sacralità del sacro è appunto il filosofare in quanto filosofare. Grazie a questi brevi e incompleti tratti sul filosofare di Fichte, si può notare alcuni aspetti di affinità tra Fichte e Schopenhauer, anche se, come è noto, Schopenhauer critica ferocemente Fichte, Schelley e soprattutto Hegel. Per Fichte, come per Schopenhauer, l'ultima parola del sacro è data dalla filosofia. Primo. Secondo, come per Fichte, così per Schopenhauer, la libertà e non il mondo fenomenico delle leggi è il terreno in cui si dischiude il sacro. Terzo, per Fichte e per Schopenhauer, l'azione etica, che in fondo ontologica, si radica nella libertà. Grazie a tale azione viene superato il rapporto kantiano tra mondo fenomenico e mondo intelligibile. Quinto, come per Fichte, pure e soprattutto per Schopenhauer, il mondo fenomenico viene considerato come Vorhang che copre il divino. L'ultima parola deve cogliersi nella decisione che Schopenhauer non chiama come Fichte Glauben, ma chiama volontà, volontà di vita. Però la dimensione di Glaube, di volontà, hanno in comune il fatto che devono sottrarsi, a quel punto direi ancora di affinità, sottrarsi ai caratteri fondamentali che sono determinanti per il mondo fenomenico. Soltanto qui c'è la famosa Verneinung des Lebens, negazione del nebbia, il famoso pessimismo. Non esiste, è ovvio. È solo proprio questo sistema, è proprio questo momento di sottrarsi alle catene della rappresentazione del mondo. Quindi ai caratteri fondamentali che sono determinanti per il mondo fenomenico. Il fatto che non deve sottrarsi ai caratteri del mondo fenomenico che sono sotto l'egida della facoltà conoscitiva comporta che la volontà venga a dichiararsi come non razionale, come irrazionale. Questo non implica una conoscenza irrazionalistica. Probabilmente io sarei contro, se non so che il nostro maestro qui di questo campo, sì, il nostro grande amico, praticamente cosa può dirlo? Cioè, il momento irrazionale, cioè la non razionalità, se Schopenhauer ha visto sempre la storia della filosofia come irrazionale e pessimista, ma non è vero. Questo non implica una concezione razionalistica, ma solo arazionale, dato che la volontà di vita morde su un terreno di coscienza che sfugge al piano della facoltà conoscitiva, come ora farò presente, così pure il termine pessimismo, applicato alla concezione di Schopenhauer, ha senso solo perché si oppone alla concezione hegeliana che domina appunto dove domina l'ottimismo. È precisamente ottimismo del piano della ragione, tipico dell'intelletto conoscente, conoscitivo. Però su questo piano non si può cogliere la dimensione ontologica della libertà e quindi del sacro. In tal modo il pessimismo di Schopenhauer è solo simplicite, non simplicite, direi secondo un quid, è solo sotto un aspetto relativo, ma non assoluto. Lo stesso vale per la nota negazione della volontà di vita, in quanto il termine negazione non vale per questo ambito della volontà, che è oggetto della coscienza sottoposta alla facoltà di intento conoscitivo. La dottrina di Schopenhauer si mostra così in tutto il suo risvolto positivo e quindi ottimistico, direi più ottimistico di quelli di Hegel. Per tutti e due, cioè Fichte e Schopenhauer, il dualismo gnoseologico di Kant si rivela sotto l'aspetto metafisico, e l'ultima espressione di questa metafisica è soprattutto per Schopenhauer a livello esistenziale ed esistentivo, dato che alla fine si tratta dell'esistere che viene posto di fronte alla trascendenza. La trascendenza è data appunto dal termine Verneinung, cioè negazione di cui parla sempre Schopenhauer, per me è la trascendenza, cioè negazione della volontà di vita, proprio come per Jaspers dal concetto di limite. In questo Verneinung si può cogliere, a mio avviso, la diversità di fondo però del procedimento filosofico tra Fichte e Schopenhauer. Per Fichte si tratta di un campo etico teso nel futuro, abbiamo visto che il messianismo è tipico cristiano. Schopenhauer invece non ha la volontà di vita, la sua volontà di vita è condanna a questo ottimismo scatologico come assurdo, e lo dice anzi, lo dice ruchlose Denkungsart, proprio empio, no? Modo di pensare empio questo messianismo. L'essere come volontà è originariamente cieca, incosciente, senza intelletto. La scelta di Schopenhauer è quella di abbandonare il mondo fenomenico retto dalla ferrea legge del pensiero per il mondo intelligibile della libertà. Rimane pure per Schopenhauer un dualismo, quello tra libertà e necessità. Però mi sembra che Schopenhauer non voglia calare il mondo della libertà su quello delle necessità per migliorare il mondo delle necessità. Questo è il punto di diversità con Fichte. Cioè, mentre questo movente scatologico, cioè manca questo movente scatologico, quella Verneinung di Schopenhauer, che a mio avviso vicino alla Schanke di Jaspers, si vuole ricondurre l'autenticità del pensare sempre nel campo della libertà. Il momento escatologico di Fichte viene abbandonato. In fondo Fichte rimane ancora ancorato alla distinzione classica, tipica del pensiero metafisico occidentale, ecco il punto, tra essere e dover essere. Per me questa è la distinzione fondamentale. Schopenhauer l'ha già superata. Tra essere e dover essere. Il dover essere, per Fichte come potere metafisica, rimane la base dell'essere. La storia del pensiero è il teatro di questa tensione. Quanto più vi è di dover essere, tanto più vi è di essere. Questo è il compito etico dell'io come ur-ich. Vi è così il piano dell'essenza che rimane sempre al di là di quello dell'esistenza, a quel punto, cioè essenza e esistenza, essenza è sempre al di là. Vi è così in fondo ancora una estraniazione, Feuerbach, che costituisce il compito etico dell'io. In tal modo però si nota una sfasatura tra il principio dell'essere come Forderung, come impegno etico dell'io. Cioè vi sono due piani, il piano dell'essere e del dover essere sul piano originario dell'essere, non so se mi sono spiegato, cioè tiene praticamente come la vecchia metafisica classica l'essere e dover essere, però sul piano dell'essere, d'altra parte in Fichte vi è il piano dell'essere reale individuale, cioè non riesce per me questa sfasatura, non riesce per me a completare, Schopenhauer se ne libera. Questa sfasatura rende a mio avviso equivoca la dimensione esistenziale della fede fichtiana, che dovrebbe scaturire solo dal piano della libertà, ma dal piano della libertà che dipende dalla volontà, ma questa volontà che non è la volontà legata all'intelletto, ma che è la volontà come autocoscienza. Questa distinzione di volontà, questa distinzione di due piani di coscienza, non l'ha fatta Fichte, ed è questo praticamente per cui la fede rimane equivoca. Schopenhauer preferisce abbandonare questo escatologismo, che ha la sua ragione nel terreno del dualismo tra essere e dover essere, che guida la storia. Schopenhauer preferisce così sopprimere il dover essere, che è ciò che causa lo stacco dall'essere, da se stesso, inteso come compito di dover essere. In questo modo Schopenhauer pensa di superare l'estraniazione che è presente nell'essere. Perciò in Schopenhauer l'essenza e l'esistenza formano una unità. Questo è fondamentale nell'ultima parte soprattutto del suo capolavoro, cioè l'essenza e l'esistenza formano una unità. Il Dasein è un tempo esistenza ed essenza, cioè tutta la sua essenza si esaurisce nel suo esistere. Questo è, a mio avviso, il senso di quella Fernaini della vita dopo aver definito l'essere come volontà di vita. Questa è una contraddizione. Prima l'essere è volontà di vita e dopo l'essere deve essere Fernaini della vita. Schopenhauer riesce a staccare i due piani perché distingue un duplice piano di volontà. Ecco, adesso rientro così nell'analisi di questo bellissimo, adesso appena 120 pagine, questo bellissimo scritto sulla libertà della volontà. Schopenhauer riesce a staccare i due piani perché distingue un duplice piano di volontà. In tal modo viene ridimensionato la portata della Verneinung, poiché non riguarda la volontà colta nella sua essenza come libertà, ma solo quella volontà che è unita al movente, al fare, legato quindi al piano di intelletto. Ripeto, cioè, se questa negazione riguardasse la volontà simplicita in quanto volontà, è ovvio che sarebbe negazione della vita, è chiaro, la volontà di vivere, ma non riguarda la volontà simplicita in quanto volontà, riguarda solo quel piano della volontà che è legato al piano del conoscere, e allora è una questione diversa. Quindi riguarda praticamente tutto ciò che è sotto al principio del Satz von Grund, e allora è ovvio che questo deve essere eliminato affinché l'altro possa essere portato a dimensione ontologica. È un piano, quasi un lavorio che fa lento in essere tempo Heidegger, no? Quella volontà che è unita, va bene. In tal modo, con la Verneinung, Schopenhauer apre la stessa operazione che opera Jaspers con il confine, cioè non lo stacco, ma il passaggio dal piano inautentico a quello autentico. Ecco il punto. Solo nel piano autentico della libertà ci può essere il divino, il sacro, non però in quello inautentico del rapporto tra volontà e fare. In tal modo Schopenhauer si mostra molto affine a Jaspers, anche se Jaspers è stato con Schopenhauer poco carino, perché ha fatto un saggio veramente brutto su Schopenhauer, Jaspers. Questo mi dispiace, no? Allora, più in particolare, vediamo adesso l'opera, ma sono veloce però. Nel parlare intanto di coscienza a latina, se capite questa distinzione, potete facilissimo, diventa una barzelletta, distingue Bewusstsein da Gewissen, questo abbiamo visto perché lui lo vuole sapere, no? E riprende in considerazione solo la coscienza come Bewusstsein. Distingue due modi di essere di Bewusstsein, cioè Bewusstseins des eigenen selbst e Bewusstsein andere Dingen. Bewusstseins des eigenen selbst chiama Selbstbewusstseins, e questo oggetto del Selbstbewusstseins è la volontà. Mentre invece Bewusstseins andere Dingen, le altre cose, lo chiama praticamente è legata all'Erkenntnisvermögen, cioè è facoltà conoscitiva, e l'oggetto non è la volontà, ma è le leggi del mondo. Per cui praticamente l'oggetto è sempre il fare della volontà, non la volontà. Tutto questo scritto bellissimo, un capolavoro questo scritto di Schopenhauer, tutto questo scritto bellissimo gioca sempre. Beh, cos'è la libertà? La libertà fisica, la metafisica, la libertà morale. Questa di cui parla lui, la Selbstbewusstsein, è la libertà morale, che non ha a che fare con morale, ma è ontologica. La coscienza delle altre cose, che è legata alla facoltà conoscitiva, è la parte più ampia della coscienza, e distingue, questa è la coscienza, facciamo un cerchio, no? Allora, la coscienza delle altre cose è tre quarti, i tre quarti lo aggiungo io, cioè dice più ampia, no? Cioè è più ampia. E la coscienza invece di sé è la parte più piccola. È ovvio, no, questo, perché logicamente la coscienza di sé, l'essere se stessi, è sempre la parte più ristretta, è quella oscura, quella che non si conosce, infatti vedere è oscura. La coscienza delle altre cose, che è legata alla facoltà conoscitiva, è la parte più ampia della coscienza. Prima che compaiano queste altre cose, essa contiene certe forme, sappiamo, che sono condizioni della possibilità dell'essere oggettivo di queste cose, cioè della loro esistenza in quanto oggetto per noi. Queste condizioni della loro possibilità sono Zeit, Raum e Causalität. Problema. Queste forme del conoscere sono in noi, cioè la coscienza, però non appartengono all'ambito dell'autocoscienza. Dobbiamo stare molto attenti, cioè quel piccolo ambito dell'autocoscienza non appartengono queste forme, in quanto servono solo allo scopo di coscienza delle altre cose. Quindi non riguarda più che il piccolo ambito dell'autocoscienza. si capisce perché la Schopenhauer dica che la parte maggiore di questa coscienza è la coscienza delle altre cose, perché è legata a conoscere, che termina nei concetti e quindi nel Denken. La parte invece più ristretta della coscienza ha come oggetto solo selbst, che io traduco non io, come è stato tradotto, ma io preferirei, passi che mi sbagli, selbst, traduco sempre sia anche Jasper come Heidegger, come essere se stessi, non come io, perché io ho sempre di fronte l'oggetto, che invece la coscienza è senza oggetto. Quindi è l'essere se stessi. Di qui Selbstbewusstsein. Nel contesto di Selbstbewusstsein, il problema della libertà si restringe al problema della libertà del volere e caratteri fondamentali di questa autocoscienza è l'essere immediata, cioè non passa attraverso gli oggetti. Oggetto immediato di esso è la volontà. In tal modo, dato il duplice piano di essere della coscienza, cioè tra parte Bewusstsein, da quella più piccola Selbstbewusstsein, vi saranno due modi di essere della volontà. La volontà di fronte alle altre cose, quella più grande, e la volontà invece di fronte all'essere a se stessi. Quanto uno vuole significa che il suo atto è... questo va bene. L'oggetto è il motivo ed è la materia dell'atto della volontà. Senza questa materia non potrebbe esserci l'atto della volontà. E qui il problema di fondo di questo scritto. L'atto di volontà è provocato dal motivo, dice lui, sempre motivo, in modo necessario, o la libertà è invece libera di volere o di non volere? Tutti sanno la risposta, non puoi dirla, no? Si può sintetizzare la risposta con un distinguo. La volontà legata all'intelletto conoscitivo e quindi sotto il dominio dei principi di ragione sufficiente e quindi dei principi formali di spazio, tempo e causalità, questa volontà non è libera. La volontà invece, oggetto immediato dell'autocoscienza, che cade quindi al di fuori della ferrea legge del Satz von Grund, questa volontà invece è libera. Perciò la libertà abbiamo solo qui ed è qui che si manifesta il sacro. Non può manifestarsi nell'altra parte dell'oggetto. E qui direi, su questo punto, su questo piano, avrei tutta la discussione della secolarizzazione, di cui abbiamo discusso anche su questo, in questo locale diverse volte. A questo livello non si tratta tanto della libertà del fare, quanto di quella del volere. Cioè non si tratta del rapporto tra volere e fare, quanto solo di volere. A questo livello, quello dell'autocoscienza, il problema è più a livello di fondamento, in quanto ci si chiede in che cosa consista questo volere, oggetto immediato della coscienza e staccato dall'intento del conoscere? Ricordate che prima Fichte faceva sempre, andava giocando sul ich e l'ur-ich, no? Cioè ci si chiede se dipenda a sua volta da qualche cosa o se invece non dipenda da nessuna cosa e quindi se dipende da non cosa e perciò si dipende da nulla. E qui siamo nell'nichilismo. L'ultima risposta anche per Schopenhauer è questo nichilismo. Se viene a dipendere da qualche cosa inteso come oggetto, allora la volontà dell'autocoscienza si confonde con la volontà della coscienza e quindi con le leggi conoscitive, perciò va smarrita. Non rimane altro allora che dipendere, e questa volontà dipenda dal non oggetto e quindi dal nulla. Non rimane altro quindi che la coscienza come autocoscienza dipenda dal nulla. A questo livello si apre alla fine quale orizzonte ultimo, l'orizzonte del nichilismo. Questo è a mio avviso però non pessimismo, ma è un nichilismo positivo, perciò ottimismo, dove viene salvata veramente la libertà autentica, dove la libertà si sente posta di fronte al suo fondamento ultimo, che è Dio, che è il sacro, non è Dio della religione. Tutte le religioni hanno il sacro. Questo logicamente lo sentiremo da Riconda. In questo ambito soltanto si apre la dimensione del divino. Solo così si capisce perché la volontà dell'uomo rappresenta a questo livello ontologico il suo proprio essere se stesso, selbst. La coscienza come autocoscienza dice solo la coscienza di essere se stessi come volontà, e basta, non dice altro. A tale livello viene superato ogni momento di estraneazione. Tale selbst è il fondamento ultimo della coscienza, dove soltanto può sorgere la questione sul divino. Schopenhauer scrive, l'uomo è così come vuole, e vuole com'è, er selbst ist er will, und will, wie er ist. Questa è la risposta a una possibile definizione della coscienza considerato come autocoscienza immediata. Direi, vogliamo una definizione, questa sarebbe la definizione. Si capisce perché egli dica, tra l'altro, che la coscienza è oscura all'interno. Bellissimo questa coscienza oscura. Mentre grazie alla facoltà cognitiva è tutta rivolta all'esterno, dove trova il piano del definibile. Così, se all'inizio dello scritto in questione il filosofo distingue un triplice modo di essere libertà, cioè fisica, intelligibile e morale, si deve dire che la libertà morale è libera, la chiama morale, che in fondo è libertà ontologica, mentre quella fisica e quella intellettuale, rispetto al principio del non sufficiente, non sono libere. La libertà morale, moralis e Freiheit, dice Schopenhauer, appartiene a una specie superiore, höhere Art. Questo è interessante, si deve buttare via questa frase. Appartiene a una specie superiore, höhere Art. Caratteristica di questa libertà morale è la responsabilità, Verantwortlichkeit. Mi ricordo che l'amico Guggenheim, alla fine, per distinguere la filosofia dell'esistenza dalla teologia dell'esistenza, non trova altro che la Verantwortlichkeit. Pensate di questo, la responsabilità. Qui arriviamo all'ultimo punto, all'ultima radice di tutto, che Schopenhauer definisce come Gefühl, sentimento, ma è quello stesso sentimento alla Schleiermacher, cioè sentimento ontologico. Tale Gefühl di responsabilità non è fondata a priori, altrimenti sarebbe logicamente quella della volontà dell'altro tipo, non sottostà alle leggi dell'agio sufficiente, è solo Gefühl. Non può essere altro che Gefühl, altrimenti praticamente sarebbe definibile secondo le leggi dell'agio sufficiente. Si tratta ovviamente di Gefühl a livello ontologico, non psicologico. E mi richiamo, come dicevo, alla natura dei Gefühl a proposito del sacco di cui parla Schleiermacher. È un Gefühl prettamente filosofico, come Schopenhauer stesso dice nelle ultime sue pagine di questo scritto. Gefühl filosofico. Questa volontà, come Ding an sich, è libertà assoluta ed è, lui dice, trascendentale. Ecco. Anche Jaspers alla fine non può altro che dire che praticamente la sua trascendenza è trascendenza trascendentale in fondo, no? E deve essere pensata come das Innenwesen des Menschen an sich. Si tratta di una libertà che non è nell'operare ma nell'essere, e non come si era soliti pensare nel vecchio metafisico oppure tradizionale, si attribuiva la necessità all'essere e la libertà all'essere e la libertà all'operare. Si supera quella distinzione di cui si parlava sopra con Fichte, quella tra essere e dover essere, tanto che Schopenhauer, in Schopenhauer l'essere è tutta la libertà di essere ed è quindi la coscienza ultima della responsabilità. Così la libertà non è eliminata, importantissimo, ma è spostata in un terreno più alto, in una regione più alta. Lui dice, sono parole sue, non facilmente accessibile alla nostra conoscenza trascendentale, non facilmente conoscibile, cioè non nega che ci si possa anche in qualche modo avvicinare, non dico in modo analogico, questo devo vederlo perché, come dico, sono, ho appena cominciato a leggere l'opera di Schopenhauer, non so se lui dopo ponga anche in qualche modo in questo, però quando prima anche Schumacher parlava di queste intuitive Erkenntnis, questa intuitiva Erkenntnis è ben diversa da quella del Desas von Grund. Schopenhauer conclude il suo storico e il suo scritto sulla libertà facendo propria l'espressione di Malebranche, per me è bellissima. La liberté è mistero, la libertà è mistero, favoloso. Ora è proprio in questo terreno che cade fuori di conoscere che la libertà lascia trasparire la dimensione ultima del sacro. L'ultima pagina, adesso do alcuni paragrafi dell'opera di Welt als Wille und Vorstellung. Paragrafo 53, do alcuni cenni per convalidare la tesi che prima avevo detto, no? Si sottolinea la dimensione filosofica, abbiamo già parlato. La filosofia è sempre teoretica, i caratteri essenziali, qualunque sia l'oggetto immediato di ricerca, è quello di betrachten, considerare, forschen, indagare, non mai di forschreiben, di prescrivere, mai etica. È sempre teoretica. Questo modo di portare avanti il discorso è tipico, a mio avviso, di tutta la filosofia dell'esistenza, l'esistenza filosofia, il carattere ultimo del sacro è fondato in tutta questa filosofia non sulla ragione pratica, kantiana, imperativo categorico, ma solo sul fondamento dell'uomo. Si deve abbandonare, dice Schopenhauer, le vecchie pretese di regolare la condotta. Perciò io direi di stare attenti quando viene interpretato sempre in modo etico, quasi che la santità sia proprio un'ascesi, quasi direi, come in alcuni punti di cristianesimo. Da parte anche la morale del cristianesimo si fonda su principi ontologici, anche se la dogmatica del cristianesimo durante i secoli abbia sottolineato molto la morale, più che i momenti fondamentali. Ciò che decide sulla salvezza di un'esistenza, dice Schopenhauer, non sono i morti concetti, ma l'intima natura dell'uomo. Bellissimo questo che richiama Platone, il demone che lo guida e che non lo scelse, ma ne fu scelto, tra parentesi cita Platone. Questo demone non deriva da, non sono io che lo faccio, ma fui bestimmt des Menschen di Fichte, sono abbandonato, sono scelto, sono determinato, bestimmt. Oppure dice, ho il suo carattere intelligibile Kant. Questo è bellissimo perché finalmente si vede che lui interpreta Kant in senso di Platone, quindi in senso ontologico, il termine intelligibile fuori da Das von Grund. Trovo importante di questo passo dal carattere intelligibile kantiano è in fondo quello stesso della lettura che dà Jaspers. Tale dimensione non sceglie ma che si lascia scegliere. Dove si può notare anche il famoso Seilassen di Heidegger, eccetera. Non è il scegliere libertà a livello ontico, ma il lasciarsi scegliere la libertà a livello ontologico che rimanda alla fonte. Paragrafo 54. La volontà conoscitiva di se stessa è Erkenntnislos, Blinder, e poi è un Drang che non si ferma, una falsata. Per Wille zu leben è la sostanza, è il fondamento dell'uomo, ma si trova pure come essenza del mondo. Però nel mondo fenomenico è volontà come specchio della volontà ontologica. Ecco il famoso diciamo, colpo di scena, cioè è logico, però la volontà nel mondo è la volontà legata al conoscere, fa parte di quella, non del Selbstbewusstsein, ma del Bewusstsein. Allora si dice negazione, la negazione non riguarda solo il Bewusstsein, non il Selbstbewusstsein. Paragrafo 68. Dopo aver parlato nei paragrafi precedenti della sorgente da cui scaturisce la bontà, l'amore, la virtù, la nobiltà d'animo, lui dice da questa stessa sorgente scaturisce la famosa Verneinung des Willens zum Leben, che nelle pagine precedenti avevo posto vicino al limite di Jaspers. Tale Verneinung è quanto mai positiva, perché grazie ad esso si apre il velo di Maya, ecco il punto, il velo di Maya, dove si può vedere che la realtà è prigioniera del principio di individuazione, dove si fonda l'egoismo, dove si fonda, e su questo egoismo si fonda l'odio e la malvagità. Questo è favoloso. Cioè, praticamente si potrebbe fare, secondo la interpretazione della filosofia, come de andere, cioè l'egoismo e la volontà sarebbe de andere. Superare l'egoismo si può solo con l'atto di giustizia, Gerechtigkeit. Ricordate Nietzsche, plop, ogni tanto di Gerechtigkeit. Non c'entra né giustizia sociale, né giustizia religiosa, è una giustizia ontologica che implica il sacro stesso. Non si può tradurre questa giustizia, è una giustizia greca. Da questo c'è l'amore, come dice lui, come höchste Grau. Sommo però, non l'amore che riguarda il campo del conoscere, grazie al quale si ha la penetrazione, Durchschauung, del principio di individuazione, di cui ha parlato anche prima il mio amico. Grazie a questo Durchschauung, che io metterei vicino al famoso Quer di Jaspers, cioè il Quer di Jaspers, la realtà, poi arriva il Quer Takte, allora la realtà praticamente diventa Durchsicht, si può vedere. Qui praticamente la Durchschauung, del principio di individuazione, si spacca il velo di Maya, si solleva il velo di Maya. A questo punto viene soppressa ogni distinzione egoistica tra la propria persona e l'altrui. Bellissimo, l'egoismo è finito, non c'è né io né non io, si supera tutto, no? La considerazione del tutto della natura kantiana delle cose diventa un quietivo, quietive però la sua, per qualsiasi volontà. Allora, che cos'è il sacro? La volontà si stacca dalla vita. L'uomo perviene a uno stadio di volontaria rinuncia, freiwillig Entsagung, di rassegnazione, di perfetta quiete. Bellissimo, la chiama Ware Gelassenheit. Non a caso, Gelassenheit. È di soppressione completa del volere, cioè di cui l'altro voglia, non di quello. Sotto, solo quando la volontà non afferma più la propria scienza, rispecchiandosi nel fenomeno, ma la nega, allora tale fenomeno presenta il passaggio di Übergang, finalmente dalla virtù, Tugend, alla scienza. Ecco la scienza, è qui, quando si è praticamente vero di Maya, questo Übergang, questo Quer, questo du shao. Ecco finalmente l'ascesi. Non c'entra un'ascesi cristiana, un'ascesi buddista. Certo, lui lavora con tutte le religioni per poter chiarire questo concetto, ma dice ogni tanto il mio concetto è filosofico. Abbraccia tutte le religioni, ma le religioni vengono tutte superate. L'ascesi è questo concetto. L'uomo si accontenta d'amare per i propri, per se stesso, ma sorge in lui la ripugnanza per quell'essere di cui è manifestazione il suo stesso fenomeno. Con la soppressione della conoscenza, il resto del mondo si dissolve nel nulla. Quindi, ricordate prima Fichte ha fatto il furbo, in certo modo, aveva cercato di giocare, di superare, dicendo che sono Bilder, Nietzsche. Lui invece lo fa in altro modo. Poiché senza soggetto non c'è alcun oggetto. Per Schopenhauer, come per Heidegger, per Jasper, l'ultima parola del fondamento dell'essere come sacro è, a mio avviso, questa Gelassenheit. Sulla lato di Gelassenheit si apre il velo di Maya. E se la Verklärung, Nietzscheana, il sacro e la Gelassenheit sono sullo stesso piano. Non a caso, come Heidegger e Jasper faranno più tardi, Schopenhauer si rifà a Eckhart e proprio nel paragrafo 63 lo cita due volte. Chissà quante volte lo citerà in quello che non ho letto. Basta. Ringraziamo anche il professor Penso, che è stato nella redazione, cioè adesso si pone il problema: c'è bisogno di una mediazione e chi la può fare? La uso la fai. La fai uso. Sì, ma fa niente, basta due parole e poi faccio io, ti aggiungo. Tanto stavo attento Deutsche. Ti aiuto io dopo il caso. Also seine allgemeine These, mit der er begonnen hat, ist die von der Freiheit als ontologische Dimension des Heiligen. Und die partikuläre These wäre eben über die Freiheit des Willens, besonders im Werke Schopenhauers, die Welt als Wille und Vorstellung. Über die Freiheit des Willens, Entschuldigung. Dann hat er gegenübergestellt zunächst Fichte und Schopenhauer. Und zwar Fichte im Werk Die Bestimmung des Menschen. Beide bewegen sich noch in einem Klima, in einem kantianischen Klima. Beide streben eine Befreiung im Sinne einer Überwindung der Natur an und eine freie Selbstbestimmung. Also in Fichte ist der Trieb zur absoluten Unabhängigkeit und also nicht Bewusstsein ist im Spiel, sondern das Selbstbewusstsein. Und zwar unmittelbar und gefühlt. Also der Wille ist eine Entscheidung, und zwar das Hören auf eine innere Stimme. Es handelt sich um einen Willensakt, das heißt um den Willen gelten lassen, was dann von Jaspers übernommen wird in einem gewissen Sinne. Ja. Also das Ich als Ur-Ich, es handelt sich immer um Fichte zunächst, und zwar nicht der Intellekt, sondern der Wille, das sich selbst setzen, die Schranke zu überwinden. Also die empirische Welt, die Welt des Erkennbaren, ist ein Vorhang, der das Göttliche bedeckt. Und durch die Entscheidung wird dieser Vorhang durchsichtig. Nur das religiöse Auge dringt ein, sagt Fichte. Das wäre der Glaube, nicht? Was er sagt. Ja. Also der Sinn des Heiligen hängt mit dem Willen des Menschen zusammen, ja? Und jetzt stellt er die Ähnlichkeit zwischen Fichte und Schopenhauer hervor. Also Schopenhauer, obgleich er Fichte und Hegel sehr scharf kritisiert, hat doch viel Ähnliches, also besonders was den Willen anbetrifft. Also der Wille ist ein sich entziehen, sich der Welt des Phänomens entziehen und sich aus den Ketten der Vorstellung befreien. Ne? Es handelt sich um eine Nicht-Rationalität, aber nicht um einen Irrationalismus. In diesem Sinne ist der Pessimismus von Schopenhauer. Kein wirklicher Pessimismus, sondern im Grunde ist er positiv. Er hat gesagt, fast optimistisch. Dann der Unterschied ist zwischen Fichte und Schopenhauer ist besonders der, dass in Fichte ein Messianismus besteht, also ein Unterschied und ein Unterschied zwischen dem Sein und dem Nichtsein. Also es ist noch an diese Unterscheidung gebunden zwischen Nein und Nichtsein. Und dies wird eben von Schopenhauer überwunden. Also er bezeichnet sogar diesen Messianismus als eine ruchlose Denkungsart. Schopenhauer überwindet diesen Dualismus. Das heißt, er sieht zwei Ebenen des Bewusstsein. Eine größere. Ja, eine größere und eine kleinere Ebene. Eines Bewusstseins andere dient ist die größere. Das Bewusstsein als Selbstbewusstsein. Ja, das Bewusstsein als Bewusstsein den Dingen gegenüber, also das noch an die den Satz vom Grund gebunden ist und ein Selbstbewusstsein. Es handelt sich nicht um das Tun, sondern um das Wollen, ja? Unmittelbar Objekt, das Wollen, das Tun. Das ist eine zweifache Ebene des Willens entspricht diesen zwei Ebenen des Bewusstseins, ja? Das Bewusstsein des Selbst und das Bewusstsein, das an die an das Erkenntnisvermögen gebunden ist, welches den breiteren Anteil, den breiteren Raum einnimmt, ja? Also der Wille, die Freiheit des Willens ist in zwei. Ist von zwei Gesichtspunkten aus zu betrachten. Und zwar, wie wir gesagt haben, dass der Wille, der an das Bewusstsein der Dinge gebunden ist, und das ist unauthentisch. Ne? Das ist der nicht authentische, der nicht authentische Wille, und der Wille, der an das Bewusstsein gebunden ist, die zum Erkenntnisvermögen, das zum Erkenntnisvermögen gehört. Nein, das ist der nicht authentische Wille, ja. Und das, der Wille, der an das Bewusstsein des eigenen Selbst gebunden ist, das ist der authentische Wille, der freie Wille. Und hier kann sich auch das Heilige offenbaren. Ja? Nur hier, ja. Nur hier kann sich das Heilige offenbaren. Und hier kommt man dann auch, kann man sagen, zu einem Nihilismus. Ja. Ne? Man könnte sagen, dass hier Schopenhauer zu einem Nihilismus kommt, weil der Wille nicht an das Objekt gebunden ist, an den Gegenstand gebunden ist und daher an das Nichts. Aber es handelt sich um einen positiven Nihilismus. Denn in dem Nichts eröffnet sich das Heilige oder das Göttliche. Ja, das wäre die moralische Freiheit. Ja, gut, das kannst du toll gemacht. Gut, ja. Ich möchte nur einige unsystematische Bemerkungen zum Thema machen. Vielleicht kann man über das Heilige nur sprechen, indem man unsystematische Bemerkungen macht. Aber ich habe jetzt schon gesagt, von dem Heiligen, mir ist bei den Vorträgen aufgegangen, dass der Titel der Tagung Schopenhauer und das, der deutsche Titel Schopenhauer und das Problem des Heiligen eine Ambiguität verdeckt, ist von dem Heiligen, das verdeckt es wieder. Also ist das Heilige gemeint, ist der Heilige gemeint. Und ich möchte das nur als Frage nicht immer so hinstellen. Und das wäre also mein erster Punkt, diese Ambiguität zu kennzeichnen und aufzudecken. Und ich werde in zwei anderen Punkten noch von zwei anderen Ambiguitäten des Themas sprechen. Vielleicht heißt es, sich mit dem Heiligen zu beschäftigen, zu akzeptieren, dass man immer in Ambiguitäten sich vielleicht bewegt, dass man nicht da rauskommt. Mit der Themenformulierung, ich werde mich also vor allen Dingen jetzt auf den Vortrag von Herrn Schirmacher beziehen und das andere so en passant mal darauf hinweisen, soweit das zu meinen Punkten genau passt. Ich fand die Themenformulierung außerordentlich interessant. Der Heilige als Lebensform, mir leuchtet ein, dass der Heilige diese eine Individualisierung sein muss, nicht? Auch gerade von Schopenhauer her. Man kann das Heilige nur leben und insofern ist das eine Individualisierung. Insofern ist die Allgemeinheit aufgehoben. Links, aber dann Lebensform andererseits wieder scheint mir was Allgemeines zu sein. Ich habe also Schwierigkeiten damit zu sagen, der Heilige als Lebensform. Lebensform ist das, was uns doch eigentlich die Individualität überschreitet. Eine Assoziation, die auch auf gewisse Traditionen hinweisen soll, in denen ja auch Schopenhauer durchaus mit seinen Anmerkungen zum Heiligen steht. Man assoziiert zum Beispiel Aristoteles, dass die philosophische Lebensform auch das Allgemeine nicht gemeint, dem der Philosoph nur mehr oder weniger entsprechen kann. Andererseits aber dann doch sehr große Übereinstimmung auch in der, ich habe also immer an die philosophische Lebensform auch gedacht, dass wenn Schopenhauer von dem Heiligen die Rede ist, gewisse Askese ist damit verbunden, gewisse Lebensverneinung könnte man ja auch sagen, nicht, obwohl Leben jetzt immer bei beiden ganz was anderes heißen würde. Herr Schirmer hat ja selber auf die Tradition hingewiesen, indem er auch Kant zitiert hat. Ich glaube, die Tapferkeit des Stoikers und die Heiterkeit Epikurs, nicht, das würde sich ja auch wieder auf Aristoteles beziehen. Also auch da die Tradition, und Schopenhauer beansprucht ja auch wohl gar nicht in seinen Anmerkungen zum Heiligen besonders originell zu sein, dass er selber was erfunden hat. Er zitiert ja alte Lebensformen, Biografien, pietistische Biografien und Franz von Assisi auch. Nicht? Da macht er also deutlich, dass das durchaus etwas Traditionelles ist, was nicht heißen soll, dass das Traditionelle in einer bestimmten Situation gerade das Neue sein kann. Das will ich damit nicht Schopenhauer in dem Punkt reduzieren. Das ist gar nicht meine Absicht. Gut, und Giorgio Penza hat dezidiert das Heilige gesagt. Ich will da jetzt gar nicht entscheiden, nur diese Ambiguität klar machen, worüber wir sprechen wollen. Zweite Ambiguität. Zu Penza hin gibt es eine Theorie des Heiligen. Theorie. Richtig ist ja nach Schopenhauer auch hier gesagt worden, er zeichnet sich durch sein Leben aus. Und der Vordersatz zeigt über Schopenhauer gerade, man kann keine Theorie daraus machen. Und ich glaube, ja, zunächst etwas Schopenhauer immanent argumentiert. Eine Ambiguität, wenn man die entsprechenden Passagen zu dem Heiligen bei Schopenhauer liest, hat man ja den Eindruck, dass er in die Tradition der Moralistik reingehört. Ich meine jetzt nicht als Moralprediger, sondern als philosophische Form, die sich nicht der strengen Systemform bedient, sondern die auf Vorgänger hinweist, die auch Anekdoten erzählt und die einfach Lebensbeispiele erzählt. Andererseits bei Schopenhauer ja der ungeheure Systemanspruch, der bei ihm drin steckt, durchaus ja ein Systemanspruch, der durchaus der Anspruch des neuzeitlichen rationalistischen Systems ist, was aber gleichzeitig wieder aufgehoben werden soll. Also da eine innere Spannung. Ja, bitte. Da können wir es vielleicht gleich machen, dass ich jetzt zu Ende sprechen. Ich spreche ja nicht lange, ich mache hier nur eine Diskussionsbemerkung. Ja gut, ich habe ja gar nichts behauptet, insofern, ich habe nur gefragt. Ja, aber ich meine schon, dass ich eine Spannung bezeichnet hätte, die bei Schopenhauer besteht. Und ich finde ja, dadurch wird Schopenhauer so ungeheuer interessant. Diese moralistische Linie, die ich jetzt bei ihm bezeichnet habe, vorausgesetzt, dass es so stimmt, ist ja in sich nicht besonders interessant und der Systemanspruch ist auch nicht besonders interessant, sondern gerade auch diese Spannung von beiden, nicht? Daraus ergibt sich ja das Interessante an Schopenhauer. Jetzt aber zu mehr nicht diese Schopenhauer immanente Frage, sondern zu dem Punkt, zu dem systematischen Punkt. Kann es eine Theorie des Heiligen geben? Wie kann man darüber überhaupt sprechen, heißt das ja auch. Schirmacher hat an einem Punkt gesagt, dem Heiligen gelingt im Leben, was der Philosoph bloß zu denken vermag. Ich würde sagen, der Philosoph vermag es nicht zu denken, was der Heilige ist, und eigentlich die ganze Tendenz Ihres Vortrags war dann ja auch gerade das zu sagen. Der Heilige ist also nicht diskursiv und er kann nicht begründen und also das Begründen ist nicht entscheidend, haben Sie gesagt. Man könnte vielleicht diese Ambiguität, diese Dichotomie so zusammenfassen, der Heilige spricht nicht und der Philosoph spricht, aber er weiß nicht, was das Heilige ist, nicht, weil er es nicht, weil er selber es nicht ist. Diese Ambiguität von es zu sein, aber nicht darüber sprechen zu können, oder es nicht zu sein und darüber sprechen zu müssen, und so ähnlich. Das wäre ein anderer Punkt, der sich daraus ja ableitet, wenn nicht in der herkömmlichen Form theoretisiert und philosophiert wird, dann kann man auch nicht begründen, dann tut man eine gewisse Form von Kommunikation ja auch aufgeben. Das heißt, etwas anders ausgedrückt, der Heilige kann nicht missionarisch sein. Nee, er ist es nur. Und das wird dann ja auch, so wie Schopenhauer gesagt hat, da nimmt Schopenhauer ja dieses Problem auf, zum Heiligen muss man geboren sein. Aber dann ist es eben auch allgemeine Lebensform schwer vermittelbar. Das hat, soweit ich sehe, Schirmacher ja auch nur so als Problem einfach so ein bisschen stehen lassen. Obwohl es, und jetzt komme ich zur dritten Ambiguität, ja schon für ihn auch ganz wichtig sein muss, weil in irgendeiner Weise das Heilige ja als exemplarische Lebensform uns nun der Heilige, nicht? Als exemplarische Lebensform uns nun hier ja angeboten wurde oder zur Erwägung gestellt wurde. Ein dritter Punkt, also die dritte Ambiguität vielleicht so zu bezeichnen, alle sind heilig und keiner ist heiliger. Im Christlichen sind wir durchaus gewohnt, dass wir als die Gemeinde der Heiligen angesprochen werden. Also sind wir es alle. Andererseits sind wir auch gerade Christliche, sind wir gerade nicht alle. Ich habe gerade eine Predigt in Deutschland eines jungen Vikars gehört, der dann so über dieses Thema gesprochen hat und der dann seine Gemeinde ansprach, ihr seid eine komische Heilige. Das nimmt also gerade diese Spannung auf. Wir sind es und wir sind es nicht. Das heißt, etwas anders gewendet, den Heiligen anzuerkennen, in welchen Zusammenhängen immer, innerhalb der christlichen Gemeinde oder auch so anzuerkennen, und für ihn zu sprechen, seine Lebensform zu empfehlen, kann ja auch gerade eine Form der Immunisierung sein. Man erkennt den Heiligen an als Lebensform, um es nicht selber sein zu müssen. Oder wenn man jetzt aber das als allgemeine Lebensform empfiehlt, ja, dann bekommt es natürlich etwas ungeheuer Sprengendes, nicht? Wenn alle Heiligen sein sollen. Und ich weiß nicht, ob uns das hier empfohlen worden ist, aber in irgendeiner Weise wurde uns ja schon gesagt, als Frage, ob das nicht vielleicht die Lebensform des 21. Jahrhunderts wäre. Also die drei Ambiguitäten. Ja, no, volevo solamente, se poi riassumo in due parole, è stata molto bella questa comunicazione, cioè aveva messo in risalto all'inizio l'ambiguità di fondo, cioè mentre il mio amico parlava del sacro, del santo direi, invece parlo del sacro, e quindi praticamente la seconda ambiguità, che cioè la distinzione che io avevo praticamente eliminata tra essere e dover essere, e invece ritorna se uno parla del sacro, perché praticamente diventa quasi, come diceva Pittmeier, una teoria della vita. Cioè, secondo l'ambiguità, il santo è la teoria della vita. Allora praticamente qui c'è una terza ambiguità, come ricordo più, ma più o meno dipende da questa seconda. La terza ambiguità. Per die zweite habe ich jetzt genannt. Aber die dritte kommt dann auch auf der zweite. Ja. Ja, das kommt dann auch auf die Frage. Per nessuno è santo, tutti sono santi praticamente, perché diventa un modo di vita, no? Allora non c'è un modello, eccetera, più o meno. Ma dipende sempre dalla probabilità di due Aber er hat nicht gesagt, das ist systematisch. Er hat nicht gesagt. Nein, nein. Das kann nicht in der Sache. Ja, der Systemanspruch. Ja, das ist eine andere Sache. Das ist eine andere Sache. Das ist eine andere Sache, als systematisch Systemanspruch. Ganz anders. Lei provi a formulare in due parole in italiano l'obiezione e risponda. Come la subito, fa il bene. Meglio, non può. Io, la mia opinione è che la terza divinità che lui ha menzionato, non è una divinità, che non è possibile che uno è sacro e nessuno è sacro. Questo non è possibile. È una cosa che è così paradosso che la realtà. Non è paradosso. No, non è paradosso. Deriva da teoria come la nostra. Mia terza, mia seconda opinione è che Schopenhauer non era per niente un sistematico nel modo di pensare. Aveva un modo di pensare creativo, cioè provava sviluppare le idee con la rappresentazione e non con un sistema. Questo non è giusto. Schopenhauer è per niente un sistematico, per niente. Ma non ha detto questo, ha prima, è stato un sbaglio, un'interpretazione che non è oggettiva. Se non è oggettiva, è interpretazione. Zusammenziehen zu einer ganz fest umrissenen Abstraktung. Und dieses Abstrakte muss das Entscheidende, dann ist nachher das neue Bild, was da rauskommt. Nicht, dass man einzelne Fakten auswertet und dann hat man nachher eine Theorie, die am Ende von der Realität 10 Mal weit entfernt ist. Das ist ja gerade die Gefahr bei einer Analyse. Weil, wenn ich dieses, ich kann mit Fakten, mit Fakten, selbst wenn sie sehr richtig sind, am Ende ein vollkommen absurdes Ergebnis erzielen. Warum weiß ich? Ja, gut, das und sehen Sie vielleicht mal dann eine Bilanz darüber, was man schlucken kann oder was falsche Tatsachen vorziehen kann. Bitte, Moment. Bei Ihnen steht jetzt die Behauptung drin, dass die Schuppenhauer Etymologie von Erfahrung ausgegangen ist und nicht von dem einen systematischen Gedanken der Welt, was wir uns vorstellen. Das finde ich ja auch. Das war Ihnen systematischen Anspruch. Ja, natürlich. Das gibt noch den Sinn, quasi in der Schuppenhauer Interpretation der Genese seines Systems. Ja, Schuppenhauer ging aber nicht von einem System aus, wesentlich nie. Die Anschauung war wie immer das Primäre, dass er dann nach Hause heraus. Ja, natürlich, das betont er ja immer wieder. Wie ist das Denken immer wieder dran, das anschauliche Denken? Das ist immer wieder das anschauliche Denken. Das andere das steht ganz beiseite. Das ist für ihn nicht das kreative Denken, das mathematisch-algebraische Denken, auf bloßen Fakten fungieren, jederzeit irrwitzig sein, weil wir unserer Vorstellung unterliegen. Das müssen wir tagtäglich anwenden. Ganz einfach. Und da setzen wir ganz einfach drauf. Aber ob das so richtig ist oder falsch, das kann uns keiner sagen. Und das wusste Schopenhauer. Und deshalb hat er auf die Anschauung gesetzt. Weil nur die Anschauung über die direkte Anschauung, über über die Irrigkeit der Fakten, in der sie sich hinwegtäuschen oder hinwegführen kann. So paradox das ja, nicht nur an diesem Weg ist, dass wir verwechselt, wenn ich das mal einwenden kann. Verwechselt einfach einen Moment seiner Theorie mit der Konstruktion seiner Theorie. Nein. System heißt in diesem Fall einfach nur die Konstruktion, die durchgängige Konstruktion seiner Theorie. Das heißt, genau wie das System von Hegel eine durchgängige Erklärung, die Schopenhauer immer nennt, der Welt, des Rätsels der Welt, soweit das eben mit den Mitteln der Rationalität möglich ist. Aber innerhalb der Rationalität ist eine durchgängige Erklärung dieses Rätsels möglich, ohne dass es deswegen aufhört, ein Rätsel zu sein. Das ist jetzt ein Hinweis seiner Philosophie schon, dass diese Philosophie sich selber eine Grenze gesetzt hat. Sie hat sich selber mit dem Willen und mit dem Genie und mit dem Heiligen eine Grenze gesetzt, dieses System also ja, begrenzt. Aber innerhalb dieser Grenze hat Schopenhauer den Anspruch auf vollständiger Durchgängigkeit seiner Durchlässigkeit seiner Konstruktion. Das ist mit diesem Ausdruck System gemeint und damit steht Schopenhauer in der großen Tradition des deutschen Idealismus. Er beendet praktisch diese Tradition, weil er innerhalb dieser systematischen Konstruktion diese Grenze eingebaut hat. System hat einfach einmal, hat sich selber ein System ist aber kein Selbstzweck und darum geht es gerade. Das ist ja gerade das Entscheidende. Haben wir jetzt gesehen, dass sie nicht argumentieren mit Fakten? Oder gehen sie von einem Urbild aus und analysieren dann das Urbild, was sie vorliegen haben? Das sind doch zwei Grundverschiedene. Genau dieses Problem ist zu dieser Frage noch in dieser Debatte. Zu dem Punkt, eine Anmerkung. Buscaroli hat es nicht gesagt. Dann Sie und das Ja, aber zu dieser Frage, dann zu dieser Frage. Müssen wir zu was anderes übergehen. Allora, tutto. Ma io vorrei un po' riattaccarmi all'intervento in cui si parla di ambiguità tra il santo e il sacro. E probabilmente l'ambiguità c'è, ma solo se ci si ferma, si guarda un po' superficialmente, perché in fondo che cos'è il santo, se non in fondo colui che è tale in quanto partecipa della qualità del sacro, E che cos'è il sacro se non in fondo quello che è attestato proprio dal santo? Quindi mi pare che la grande ambiguità poi non ci sia granché, a meno che con il sacro noi non intendiamo il sacro con S maiuscolo, cioè non intendiamo Dio, ma allora evidentemente però il discorso porta un po' lontano. E quindi io francamente non vedo grande ambiguità, perché ho sempre considerato il sacro come un modo di essere o un modo di essere, e quindi ovviamente l'ambiguità mi sembra un pochino dubbia. No, c'è, perché se tu dici che il sacro dipende dal santo, allora praticamente tu fai santo con S maiuscolo, è chiaro. Se tu dici che il sacro, praticamente c'è una certa dipendenza tra tutti e due, no? Ma se dici che il sacro a sua volta dipende dal santo, allora tu sei costretto a fare il santo con S maiuscolo. E non esiste. C'è una correlazione. Non c'è nessuna correlazione, perché è santo solo colui che si avvicina al sacro. Ma stop, ma il sacro non esiste, il sacro è solo questo sottrarsi alla legge della giustificazione del sacro. Questo è il sacro, basta. Non c'è il sacro, non c'è la definizione del sacro. E ciò che lo può essere definito è questo entien, questo sottrarsi al principio della giustificazione, quindi al principio di individuazione, al principio della causalità. Questo è il sacro, solo questo. E allora è questo, ma non dovremmo nemmeno parlarne. Non si può parlare, è chiaro. Perché che non si parla di ciò che è esclusivamente negativo. No, ma non si può parlare del nulla in quanto nulla, si parla come senso, in senso di sottrarsi a, non puoi parlare in modo di definirlo, altrimenti il nulla diventa l'essere in quanto ente, no? Scusa, non è nemmeno possibile sottrarsi a se nel nulla. Ma non è nulla nel senso di nulla ontico, nulla ontologico, che è tutto diverso, che praticamente non possiamo definire la cosa. Il nulla ontologico è ciò di cui si parla, di cui c'è il logos. Appunto, e chi parla e che cosa si parla? Sì, vabbè, ma non può mai definire ciò che è logos, perché se lo definisci diventa ente, no? Poi il criterio della definizione non è, d'accordo, ma il criterio della definizione non è costitutivo della realtà, perché anche l'essere, la ragione non sono definibili, i principi non sono definibili. Ma adesso dobbiamo andare con il senso di campo, il fatto che il sacro non sia definibile non vuol dire che il sacro non sia, anzi vuol dire che il sacro massimamente è, perché l'essere è appunto indefinibile. È chiaro, questo è il primo punto. Il secondo punto si riferisce al primo relatore, e qui sono un po' perplesso su alcuni punti. Il primo punto di perplessità è che il primo relatore è che ha parlato del santo un po' come un personaggio eccezionale, un po' fuori dal comune, un po' come un personaggio da baraccone. E facilmente si può riscontrare in tutti i popoli e in tutte le civiltà. Ora, certo, se si intende il santo come un personaggio semplicemente di eccezione, fuori dal comune, può darsi che i personaggi fuori dal comune si ritrovino ovunque. Ma quando si parla del santo, evidentemente noi ne parliamo soprattutto con alcune connotazioni che vengono precipuamente da quello che è la tradizione cristiana. E allora il santo nella tradizione cristiana è veramente fuori dal comune? Fuori dal comune come fatto, perché probabilmente in questo mondo di santi, nel senso pieno, non ce n'è nessuno, ma santo nella tradizione cristiana ha anche un'altra accezione, e cioè di chi è chiamato alla santità. E allora in questa accezione sono tutti i chiamati, sono in un certo senso santi. E quindi allora è veramente il santo una personalità di eccezione? Non sarà forse il santo una dimensione di tutti? Schopenhauer questo lo conosce abbastanza bene, perché non parla dell'ascesi come riservata a delle persone particolari, ma ne parla come in fondo una apertura a tutti. Questo lo si vede soprattutto se si collega la scelta. Io identifico il santo con la scelta e quindi non con la compassione. Il santo è al di là della compassione ed è al di là della giustizia, se lo si identifica con la scelta. Se si collega il santo con l'estetta, forse la caratteristica che più distingue Schopenhauer dal buddismo è appunto questo collegamento con l'estetica, con il puro soggetto di conoscenza, con Reich, Subjekt, Erkenntnis, il costui, il puro soggetto di conoscenza, si legge chiarissimamente in Schopenhauer, è in fondo chiunque, tant'è vero che chiunque può intendere la bellezza, e così chiunque può intendere e apprezzare la santità, anche se di fatto in questo mondo probabilmente di santo non ce n'è nessuno. Ja, sein Einwand ist gewesen. Er sagt, dass er spricht über die Dimension des Heiligen, aber du hast gesprochen über die Dimension, als ob diese etwas außerordentlich wäre. In Wirklichkeit gibt es nur eine bestimmte Dimension des Heiligen, wie im Christentum ist. Stimmt es? Ja. Das andere hat man vergessen, aber ungefähr. Dimension. Ich vergesse es nicht alles. Aber ungefähr, das ist dein Einwand, nicht? Also nicht etwas Außerordentliches, keine außerordentliche Dimension, aber eine ganz bestimmte Dimension. Das Heilige ist nicht so wie eine Baracke, wie er sagt, die Tante de Baracone. Ja. Entschuldige, ich merke, dass die Frage viel allgemeiner ist, als die am Anfang mir fiel. Deshalb glaube ich, dass wir jetzt dem Professor Schirmacher das Wort geben sollen, damit eben ein Gespräch entsteht. Ja, also genau, hier nehme ich jetzt einmal die Frage, verschütteln wir doch auf die Frage, wenn die mal kurz, ganz kurz eingehen. Jede Lebensform scheint mir nur konkret verwirklichbar zu sein. So habe ich über das Phänomen des konkreten, lebenden, erscheinenden, in der Geschichte erscheinenden Heiligen zu reden, nicht eine Abstraktion über das Heilige aufzustellen. Das wäre erst ein zweiter Schritt. Ich gebe Ihnen ganz recht, dass der Bios Theoretikos der Griechen in meinem Verständnis sehr viel mit einer Lebensform des Heiligen zu tun hat. Wenn die Griechen nur wirklich Theoretiker gewesen wären, und nicht das Mittelmeer abgeholt hätten, ich glaube, dann würden wir heute sehr viel angenehmer in Athen oder anderswo leben können. Weil man die Griechen vorzuhalten hat, dass sie ihren Bios-Theoretikus niemals gelebt haben. Sie waren also in Wirklichkeit gar keine Heiligen als Lebensform, sondern sie waren das, das ist eine zweite Frage, sie waren Philosophen, die eine Theorie über den Bios-Theoretikus aufstellen. Mehr haben sie ja auch noch. Naja, obwohl wir haben es jetzt nicht, aber es gibt in unserer Welt, oder Theresa oder den Sie gleich sehen wollen, vielleicht noch einen. Die Frage, wie ist das Verhältnis zwischen dem Heiligen und dem Philosophen, die hat Schopenhauer auch sehr deutlich beantwortet. Nicht der Philosoph kann, sondern sagt, zeigt im Begriff, dass der Heilige intuitiv wissen lebt. Was heißt das? Ist das wirklich dasselbe? Da ist tatsächlich Ihre Frage, dass wir richtig sind. Natürlich nicht. Es ist der Unterschied zwischen einer Konzertkritik und einem Konzert. Der Heilige ist das Konzert, der Philosophen ist die Konzertkritik. Zu dem man braucht es nicht gegeneinander auszuspielen. Die Konzertkritik ist genauso wichtig. Und es handelt beides mal vom selben, nicht von der Musik, aber die Musik konkret gelebt, durchgeführt wird, nur. Und die dritte Amt-Kontinuität, ein sehr schönes, mehr oder weniger denk spielen. Sind ja alle Heilige oder keine Heiligen? Sind sie, meine These gegen Schopenhauer allerdings ist ja tatsächlich, dass der Heilige, wie gesagt, eine außerordentliche Dimension. Nein, nein, das ganz alltägliche ist. Das heißt, wir sind alle Heilige, nicht im Sinne irgendeines Glaubens, sondern im Sinne eines sterblichen Handelns, das wir endlich einmal lernen müssen. Heilige nicht, weil wir zu wenig sind, sondern Heilige nicht davor, aus der Fülle heraus. Das heißt, wenn wir nur das täten, nämlich möglichst wenig handeln in unserem Leben, wozu wir fähig wären, dann würde uns nichts mangeln und wir würden in diesem Kosmos jedenfalls mit Hilfe der Technologie überleben. Okay, das ist meine Antwort. Ja, danke schön. Ich möchte Ihnen geben, dass das war das Referat, doch noch einmal hervorheben, das zweite Referat hat uns Schopenhauer Theorie gegeben, hat uns gezeigt, dass die Welt losendet, religiös endet und auch darum nicht zu verfügen. Während der Schumacher ja versucht hat, das heilige Welthass zu machen, dadurch es auch utopisch zu machen. Und das würde dann auch heißen, dass das Heilige im schumacherischen Sinne ein säkularisiertes Heilige ist. Oder der Techniker als Heiliger wäre ja nicht einer, der den Betrieb der Technik mitmacht, sondern der gegenüber dem Betrieb dieser Möglichkeit der instrumentalen Entartung der Technik immun ist. Man weiß, ich nicht interessiert. Also die Weltlosigkeit des Heiligen habe ich ebenfalls unterstützt, und dass er nicht utopisch ist. Das habe ich ja gerade ganz besonders betont. Nur über Schopenhauer hinaus nicht nur einige wenige Beispiele gibt es, sondern selbst hier traue ich zu, dass wir es schaffen können. Bitte, Herr Doktor. Ja, eine ganz kleine Anmerkung noch zu der Auslegung von System und Kreativität der Klimakraft. Man kann natürlich ein gewisses System einführen und von vornherein so negativ definieren. Und das kann natürlich auch die Alternative stellen oder auch sein. Systematisch ist etwas vollkommen wertvoll. Ja, lasst es ausreden. Ich möchte den Streit auch nicht weiterführen, ich möchte mir nur gegen eines wenden, das ist wahrscheinlich hier kaum Mathematiker da. Aber ich würde mich vehement dagegen wehren, den Mathematikern die Kreativität abzusprechen. Die Entdeckung eines Satzes, auch die Ableitung, wenn wir so von Ableitung reden, die Ableitung eines mathematischen Satzes kann, ich unterstreiche das kann zumindest so kreativ sein, die andere Dinge, die wir hier als Beispiele anführen. Sonst fallen wir in einen humanitären Schritt, den der Herr Schirmacher am Schluss zu Recht und die Form in Anführungszeichen angegeben hat, dass er Gut, dann haben wir ja den Begriff von System. Nur Schopenhauer war immer zu radikal. Das heißt, wenn man es von einem anderen gebracht wird, läuft derjenige dann direkt immer Gefahr, einen auf den Fuß zu bringen. Das ist es wirklich. Nicht aus dem Zusammenhang. Warum kann ich dann ja auch nicht die Form des Rücken oder sonst was zu geben? Sicher. Dürfen wir noch eine Stimme hören? Herr Engelmann. Das reicht nicht. Man muss ja auch noch dieses Nichtwollen entwöhnen. Ja, das scheint mir in dieser Wendung schon mal so das drin zu sein. Das weiß ich. Eben die Frage, ob eben nicht in diesem Entfernen, im Verzicht auf sich selber, noch einmal unterbringt, eben eine Beschädigung dieses Willens steckt. Sie sagen von Schopenhauer, das ist nicht so intensiv. Ja, und oh ja, nicht nur nicht intensiv, sondern wirklich. Der Wille ist jetzt zu Schopenhauer nicht, was ich in mir selbst will, das gehört vielleicht auch dazu, sondern Wille entscheidet sich durch die Taten in der Welt, ja, sichtbar. So, gut, dann bin ich genau da, wo ich hin will, Herr Schirmer. Gibt es diese Schopenhauerische Konzeption, jetzt nicht nur von der Intention Schopenhauers hier, sondern von systematisch hergehen, vom systematischen Anspruch her, von der absoluten Zelle, die das hier nicht hat. Ist sie nur konzipierbar oder wird durchhaltbar vor allem in der Interpretation dort, wo man verzichtet auf das Land, wo ich sagen, das heißt, aufheben der individuellen Grenzen, jetzt nicht nur einmal insgesamt in der Geschichte, etc., den Sterbmal und den anderen Zustand über die Beziehung, sondern der Verzicht oder das Aufheben dieser individuellen Grenzen müsste doch, wenn ich auf der Schubmal recht verstanden habe, schon die Ethnung vollziehen. Und das wäre der Vollzug dessen, was man eigentlich erwartet. Wenn er gespielt, das bist du, ich erkenne nicht diesen anderen, dieses, ja, Grenzen meiner selbst. ohne hier deshalb die Verantwortung abzulegen. Allerdings, diese Verantwortung ist dann eine ganz andere als in einer personalistischen Ethik. Das hat jetzt etwas mit dem Heiligen zu tun. Ich glaube, dass Sie das in der Richtung ganz richtig herausgehört haben. Ich würde nur auf etwas großen Wert legen. Der Heilige ist ja zweifellos die Fassung, das ist ja eine große Persönlichkeit. Ja. Nur, das ist der Blick von außen auf. Innen ist er tatsächlich total entgrenzt, ohne Person. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Wir sehen aber gerade, weil das ein so ungewöhnliches ist, dass jemand sich so ganz in allem verströmt, für alles verantwortlich empfindet. Das ist für uns eine große Persönlichkeit, aber gerade er ist es, weil er es nicht ist. Ja, das ist schon. Lassen Sie sich in der Antikität oder in dieser Gruppe erlaubt, in dem zu sagen, er ist ein Trend, gerade weil er überhaupt erst persönlich ist, alle anderen überhaupt noch nicht dahin gekommen sind, was persönlich sein könnte. In meiner Definition wäre er erst ein Mensch. Das ist schon so ganz gut und das eigentlich sterblich. Der Engelmann hat lange. Ja, ich möchte vielleicht nochmal Kinder sagen, weil ich das vergessen habe. Das wird wichtig sein, dass Sie auch jetzt schon abwehren, dass die Probleme, die wir alle die beiden Unterwarten auch an der Kinder erlaubt haben. Ich würde dann auch mal kurz kommen. Sie haben, Herr Hessler, Sie haben eine Konstruktion der Historie der beiden Bilder im Selbstbewusstsein gefunden. Hier besteht die Möglichkeit, dass sich das Heilige, und Sie haben gesagt, das Heilige, das Göttliche offenbart. Nur hier, ja. Ja, nur hier. Nur hier. Das hat sehr vorgehoben. Verstehe ich Sie richtig, wenn ich sage, das heißt auch, dass das Göttliche oder das Heilige, ganz der Tradition, gemäß keine diskursive Struktur hat? Ja, natürlich. Das würde natürlich heißen, in der Regel, dass wir hier ein religiöses Verhältnis haben, ein Ereignis, ein religiöses Ereignis. Das passt natürlich dann doch wieder zu dem, was Herr Schönerer gesagt hat, dass der Heilige den Philosophen überlegen ist, weil er das lebt, was der Philosoph nur denkt oder sprechen kann. Wenn hier, würde ich sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich mein Problem an. Wenn wir von Hegel herkommt, haben wir eine Aufgabe der Philosophie oder Kommunikation. Die diskursive. Das ist der nächste, der jetzt gesagt hat. Das diskursive, das zu erreichen, was in der Region da angeschaut wird. Herr Siegmeier hat vorhin gesagt, dass wir dem Heiligen gegenüber eigentlich schweigen müssen. Das würde nach dem, was ich jetzt bestätigt bekommen habe, eigentlich sehr gut passen. In meiner Meinung, wenn wir hier sitzen, als Philosophen oder Philosophen, dann sehen wir doch, dass wir nicht schweigen wollen, nur der Aufgabe, das Heilige zu leben und das nicht nur als Offenbar zu leben und den Status des Heiligen als denjenigen, der die Offenbarung empfangen hat. Ich würde also als Gegenteil einmal sagen, das Verhältnis unsere, für den Philosophen über den Heiligen stellen, eben genau wegen dieses diskursiven Zugang zu dem, was wir das Gute nennen, was wir das Göttliche oder das Heilige nennen. Wenn das ungefähr, wenn ich die richtig interpretiert habe, dann könnte ich mal noch verstehen, was ich einzuwenden habe, und dann wäre das hier ein Raum, in dem ich diskutieren könnte. Also das heißt ja im Grunde, es geht um die Kritik. Und das würde mich dann interessieren. Ja, ich bin einverstanden, dass Sie, was Sie gesagt haben, nicht? So im Grunde, das ist richtig, ich meine, dass Sie das gesagt haben, nicht? Nur wollte ich betonen, denn wir können nie Heilige sein. Also, wir können nur. Also, da unterscheiden wir beide. Nein, aber nicht ganz. Nein, aber nicht ganz. Ich meine nicht ganz. Denn wir müssen nur in uns das Heilige sprechen lassen. Das ist die Sache, nicht? Also wir finden nie auf der Welt einen, den du sagen musst oder könntest, das ist der Heilige. Das wäre der Heilige. Das ist unmöglich. Also die Heiligkeit des Heiligen ist nur etwas, das wir bestimmt sind, nicht? Oder es kommt von Du sein lassen, nicht das ist das sei. Und das wäre dieser Vorhang, diese Welle, die Maya, das Vorhang von Maya, nicht? Ist nur in dem Moment, dann ist er dieser Vorhang von Maya ist durchsichtig geworden. Aber in dem Moment haben wir das Religiöse verstanden. Also keine Religion. Religiöse bedeutet das Heilige. Nur in dem Moment. Aber sonst ja. Nichts. Das ist Philosoph. Rein Philosoph. Ich glaube, das ist ein Problem. Ich glaube, vor jeder Frage, die wir jetzt hier stellen, vor jedem Wort, das wir erweisen, müssen wir heute die Fragen nach dem dispositiven Zugang zu dem, was uns noch umgebracht wird. Das ist ja, glaube ich, auch der Sinn von Religionswissenschaft, der Religionswissenschaft, wenn es überhaupt einen gibt. Ich meine, Offenbarung für Franz, das ist nicht kommunikativ. Ja, gut, aber jeder diskursive Begriff ist unauthentisch, anauthentischer, so im Vergleich zu dem. Ja, du musst natürlich mit diesen Begriffen vorwärts gehen. Du kannst nicht. Ohne diese Begriffe, nicht? Philosophieren. Aber diese sind ja. Immer so wie eine, ja, unauthentische Verhältnis. Ja. Ja, meine Frage bezieht sich auf das Problem, die ganz aufgezeigt werden, aus dem Verschwörung. Das ist was ich gefragt. Das Stichwort ist gefallen, die Persönlichkeit von Aktivitäten, die den ich auch sehr schön gemacht habe. Das war aber ein Teil seiner Forschungsgründe, das sind dann 20 Grad Augen. Franziskus war Heiliger im sehr religiösen Sinne. Und die Gesellschaft hat der Herr Schirmer so weit ausgegeben worden, konnte beschrieben, was mit der Technologie im Massengesetz heute los ist. Nun brachte das Konzern und die Konzernkritik. Und das haben wir ja auch gesagt, dass die Philosophen über das Teil des Konzerns der Geistern davon. Für mich ist das Problem, ich habe das hier nicht gut angefangen. Wie ist es möglich, dass der Heilige heute noch bekannt wird? Mir fällt ein Beispiel an der Gandhi, der war sicher an. Und der ist ganz eine Art dieser Weg da. Dieses Beispiel Theresa ab und Avila, Heilige Theresa, die Mutter Theresa in Calcutta, ist ja eine Augenfrau für mir auf diese katholische Welt. Für uns wäre die Frage, wenn man nicht eine Krankenschwester im Krankenhaus, die also in unendlicher Opferbereitschaft für die Kranken da ist, ein Assistenzarzt, der Überstunden macht, um an Kranken zu helfen. Man könnte ja sagen, warum ist denn der Heilige konkret angekommen? Der Heilige kann ja kein schwerer Kraft der Menschen machen. Wie, und die zweite Frage wäre, und die ist nun noch paradoxer, wie können solche Menschen sich überhaupt finden? Es wird ja heute alles organisiert. In Religionsgemeinschaften, in Parteien, in Clubs, in was immer. Es gibt der Einzelne, der vollkommen verloren. Also wie können wir heute in dieser schwierigen, massentechnischen Zeit der Television und was ist das alles, und da sind wir auch noch, heute halten wir doch nicht entdecken. Kurz einwandern, also die erste Frage geht auch ein wenig auf das zurück, was Peter Engelmann doch gesagt hat. Ich glaube, Sie haben ganz gut das Beispiel gebracht, der Philosoph kann eben nicht geigen. Die Frage ist nur, oder da unterscheiden wir uns ja offensichtlich auch, wir beide, ist das wirklich eine Offenbarung, Peter? Es ist sicher so, dass die Idee der Schopenhauer nicht in Hegel formuliert hätte, der Heilige schaut das nur an und der Philosoph begreift es dann, sondern das Begreifen dessen, was man eigentlich anschauen will. Das wäre die ja, nicht, also man begreift die Musik, die man eigentlich spielen könnte. Und die Frage ist einfach, schon von der Thomas selber war gerade Offenbarung, das ist gar keine Frage. Ich meine aber, dass der Heilige ja säkularisiert, weiß nicht, ob das Wort gefällt, aus tausend Gründen nicht, dass er aber uns anschaulich zu entdecken. Das heißt jetzt wieder auf Ihre Frage, wo ist der Heilige heute? Ja. Ich finde nicht, dass wir auf den anderen gucken sollten und fragen, ist der heilig? Das ist nämlich gar nicht die Frage. Sondern die Frage ist, wie wir selber sind. Das heißt, in uns zurückschauen, zu fragen, was an uns, wie gesagt, liebevoll, weise, oder wie diese unzähligen Übersetzungen des Heiligen, der Merkmale, der Form des Heiligen sind. Und gerade wenn man eben sieht, dass Heiligkeit eben auch als Partei mit dem Heiligen Eros umfassen kann, das ist also nicht auf Askese, in einem christlichen Mönchenaskese, wie es Kant genannt hat, beschränkt ist. Und das sind alles gleichberechtigte Formen der Heiligen in dieser sehr vielfältigen Welt wären, dann finde ich, kann man doch auch heute noch sehr viel mehr Heilige entdecken. Ich würde sagen, sind alle diejenigen heilig, die ihre Sterblichkeit begriffen haben. Begriffen jetzt nicht nur theoretisch begriffen, sondern sie auch in irgendeiner Weise leben, ihre Gebrechlichkeit. Wie genannt, nicht ihre, auch die des anderen, aber ich finde auch ihre, die eigene Gebrechlichkeit begriffen haben. Da fangen wir an, heilig zu werden, vor allem dann, wenn es nicht schon vorher so sehr richtig sagt, sondern das aktuelle Leid ist, das mich zur Heiligkeit bringt. Sondern wenn ich davon schon Abstand genommen habe, es geht mir eigentlich gut, ich gehe da draußen spazieren und erinnere mich daran, dass wir in 20, 30 Jahren in unserem Kreis so viele gestorben sein werden und manche daran sehr elendlich an Krebs oder anderen gestorben sein werden. Das beim schönen Spaziergang durch diesen Garten zu empfinden, ist so eine Form des Heiligens. Adesso devo chiedere il vostro consiglio. Mancano 10 minuti alle 7, 10 minuti in corso even. E ci sono 4 richieste di interventi. Vier Wort Meldungen sind da. Sollen wir sie zulassen oder gleich? Ecco, also dann bitte schön die Antwort dann alles. Ecco, allora comincia lei e tocca a lei. Tocca a lei adesso, subito. Sì, prego. Rispondere al relatore in fondo. No, lascia, dopo chi è che prende nota? No, adesso questi 4 dopo vi prego perché il primo vivere è insomma bene. Ecco, Cimino anche no. Basso e Cimino. Una domanda, aspetta dopo te. Le parti in italiano perché prenderei. Sì. No, fa con italiano, via. Parliamo dopo tempo. Sulla morale della fondazione di Copenaghen. Che il professore dia una notazione positiva di questa morale. Allora io voglio sapere cosa ne pensa della interpretazione che non tanto dice, ma piuttosto Max Scheler dà di questa morale come espressione di un cristianesimo ormai estenuato e decadente. In base a questa interpretazione, Schopenhauer si presenta come una figura di estenuato. Per esempio la confessione di Schopenhauer, secondo Scheler, mette molto più in risalto l'aspetto del patire, nel Nietzsche Leiden, mette in risalto l'aspetto del patire, nel Leiden, ma non l'aspetto del Nietzsche. È una specie di, si assiste a un rovesciamento dei valori, per cui ciò che è negativo diventa positivo, addirittura strumento di salvezza. Di soffrire di per se stesso sarebbe qualcosa di positivo per Schopenhauer. E Scheler cita anche alcune lettere di Schopenhauer in cui emergerebbe questo compiacimento del filosofo di fronte alle sofferenze, per esempio, degli amici, che non farebbero altro che accettare la verità della sua filosofia secondo la quale l'essenza della realtà è una conchiglia di dolore universale. Questa è la prima domanda. Poi volevo fare una domanda al professor Pezzo, un'osservazione che è questa. Io non riesco a comprendere che quanto sia in gran parte veramente suggestionata da quello che mi ha detto, trovo veramente suggestivo quello che ha detto. Non riesco a comprendere come si possa parlare di libertà. Perché per Schopenhauer, almeno a quanto posso saperne io, la molteplicità è il sonno. Quindi non ci sono le persone. Allora, se non ci sono le persone, io mi chiedo di che libertà si tratta. Diversamente, stando le cose per gli Aspers, e qui concordo con te, perché la filosofia di Aspers è una filosofia pluralistica, c'è una pluralità di esistenza. Allora io posso capire che in quel caso si parla di libertà. Ma là dove noi siamo, per così dire, agiti da un unico principio, di cui noi non siamo altro che manifestazioni, allora non riesco a dire poi questa volontà di cui tu parli, questa volontà come volontà di sé, questa volontà ontologica, su quale fondamento si possa affermare. Ma questi sono gli individui, non confondere gli individui con le persone. La scelta è questo. Beh, rispondo alla seconda, la prima è già dimenticata, ma se non so come rispondo alla mia. Guarda che il titolo no, cioè, no, distingo. Cioè, prima si è distinto logicamente la libertà. Non esiste rispetto alla molteplicità. Lo stesso dice libero arbitrio di fare anche un cenno. E io, lo dice lui, non è che io condivida, la libertà c'è solo praticamente nell'ambito dell'autocoscienza. Ma questa è libertà nell'ambito della coscienza, non è libertà del fare, perché tu devi confondere la libertà del fare e la libertà del volere, non del fare. È chiaro che quando tu ti lasci agire della volontà, non è che tu faccia, non fai niente, perché quando questa volontà, come diciamo espressione di questa volontà di se stesso, entra in atto, allora diventa già volontà, perde la libertà e diventa praticamente l'eliminazione del libero arbitrio di fare. Hai capito? Non c'è la libertà là, non c'è mai. C'è e non c'è la libertà. C'è e non c'è. C'è appena la libertà, in quanto libertà ontologica, chiamiamola, no? Diventa subito, vuole essere posta in atto e diventa la libertà del volere, questo fatto, via la libertà, non c'è più libertà. Ontologica devono mettere degli esseri a fondamento di questa libertà. Se c'è un unico essere, come possiamo parlare di una libertà? Non c'è un unico essere, è l'individuo, perché abbiamo distinto prima, non c'è quell'essere e dover essere, è l'individuo in quanto individuo che ha dentro essere e dover essere, non c'è più i due piani come per questo. L'ultima parte che volevo chiedere, poi chiudo, è sul colore. Polemica nei confronti di questo. Fa bene, giusto, è fatto bene, fatto bene. Fatto bene. Allora, se noi mettiamo a confronto, per esempio, gli aspe e corso penale, vediamo quanto sta di bene. Ma anche molta affinità. Ma no, perché gli aspe si può si rifà tante. Anche, anche lui se ne fa caso. Ma non vuol dire che sia migliore, non vuol dire che si inganna. Ma ah, mica dice inganno, qua fenomeno vuol dire inganno, praticamente non è l'autentico, questo è il punto. È il mondo etico, cioè il mondo delle azioni, il mondo. Con gli altri dei limiti, dei consigli che è chiaro. Non è conoscere come qualcosa di negativo. È chiaro, questo è chiaro. Ingannevole e illusorio. Ma è ingannevole e illusorio, non in quanto conoscere, è ingannevole e illusorio in quanto si rifà all'essere. Ecco il punto, è negativo non semplicite, ma secondo un quiz. Ecco, d'accordo, ecco te, ecco te. Cittino anche. Già, Ursula Zacchi, che si chiude anche a voi. Ursula. Schopenhauer. Ja, das ist ja auch die These von Nietzsche. Ich glaube, dass sie in beiden Fällen auf eine Fehlinterpretation dessen beruht, was Schopenhauer Mitleid nennt. Ja, Schopenhauer Mitleid, verehrte Kollegin, ist nicht, dass ich Mitleid mit einem anderen habe, sondern ist, dass ich erkenne, dass Sie und ich die gleichen armen Teufel sind, in dieser schlimmen Welt leben müssen. Das ist eine Solidarität im Leiden, dieses Mitleid. Und das hat der gute Herr Scheler fixiert auf die Ethik nicht gesehen. Das ist keine Dekadenz. Das ist eine Einsicht in die ontologischen Bedingungen des Menschen. Und nicht nur des Menschen, sondern der Welt. Aber genau das ist zum Beispiel von Mitleid. Doch, spricht er ausdrücklich. Mitleid und Mitfreude gibt es schon. Nur die entscheidende Einsicht ist die Einsicht in den Leidenscharakter der Welt. Es gibt nicht dem eine gleichgeordnete Einsicht in den Glückscharakter der Welt, weil es den Glückscharakter nicht gibt. Aber ist Leiden an sich etwas Positives? Es ist weder positiv noch negativ, es ist so. Es ist negativ oder positiv, es ist so, ist die Welt. Wir leiden in dieser Welt, das ist ihre Grundverfassung. Jetzt können Sie sagen, das stimmt ja nicht, ich bin ja auch ab und zu glücklich, nicht? Gut, dann würde ich Schopenhauer sagen, ein Glück ist ein Augenblick zwischen zwei Unglücken. Mhm. Cimino. No, no, dopo c'è molto. Allora, sì, sì, fa troppo. Voce. La possibilità stessa di interpretare in un certo modo. Mi sembra che Rossi è un'opera fondamentale, cioè molto più importante a questa situazione. Ha bisogno di essere considerato, perché non è una contraddizione che immediatamente si presenta. Perché il mondo della volontà e autorizzazione, a posto di volontà e volontà in sé, perché l'ulteriore problema interpretativo è se per Schopenhauer non esiste appunto la volontà o un altro nome da fenomeni, il mondo come intesa, come rappresentazione di un soggetto, vengono predicati su attributi assolutamente contraddittori. Perché l'intesa è esattamente il contrario appunto della rappresentazione, che è in alto. Ora, per dire la difficoltà, mi sembra, anche Nauro, chiaramente ha questa possibilità, di poter spaccare, scindere il mondo come volontà e il mondo come rappresentazione. Il mondo come intesa, come volontà, come intesa, meglio, è appunto irreale. Il mondo come rappresentazione è illusorio. Dunque, non c'è nesso tra i mondi. E non ci può essere nesso perché il nesso appartiene nuovamente alla ora Schopenhauer intende per rappresentazione qualsiasi determinazione che in quanto determinazione sottostà al principio di azione fatto dentro la qualità e per la qualità si intende l'intera gamma delle categorie italiane. Bene, ma se le cose stanno così, chi è il santo di Schopenhauer? Questa è la domanda. Chi è il santo? Cioè è una persona. Ma a quel punto la contraddizione sarebbe indiscutibile. Perché se è una persona, vedremo un soggetto che passa appunto da un mondo assolutamente illusorio ad un mondo reale, un terzo soggetto che non è né illusorio né reale. E quindi il santo non è una persona, ma rappresenta la necessità all'interno del linguaggio che è sempre fatto in comunicazione, di indicare una dimensione che appunto di sé. Come è possibile interpretare il canale di un senso umanistico? Cioè, come è possibile tirare Schopenhauer in un versante all'interno del quale sussistono bene o male le dimensioni, una dimensione che deve essere realizzata, una dimensione che bisogna subire, qualche cosa che sfugge a qualche cos'altro che appunto bisogna abbandonare. E insomma, il santo è rappresentativo appunto esclusivamente del sé, in realtà. Cosa potrà mai significare essere santi se non semplicemente essere stessi? Dunque, privare qualsiasi scindere, spaccare qualsiasi possibilità di rapporto tra di noi. Di conseguenza, appunto, di questa domanda, come può essere risultato sulle mauve, non senso di cioè, che cosa può significare se lo voglio intendere in tal modo? Intenderlo in tal modo non è negare quello che è il piano fondamentale della sua filosofia. Cioè che il mondo sia esclusivamente inutile, e appunto in sé, proprio per in sé, l'ultima stessa non ha nessun rapporto con il mondo. Rispondo pochissimo perché non parlare di altri, un attimo soltanto come io potrei rispondere, insomma, non che sono risposta a volte, dico però queste difficoltà derivano dal fatto che tu parti da un punto di cui io non sono convinto, cioè il mondo in sé e il mondo come rappresentazione. Il mondo è sempre rappresentazione, in sé non è mondo. C'è la parola mondo in senso generale, come fenomeno, come ding, ma non c'è il mondo. Il mondo, in quanto mondo, deve spostare praticamente il principio del fondamento, no? Allora è sempre rappresentazione. Perciò non c'è questo esistenza di mondi. Il mondo è rappresentazione, se ne parla più. quello in sé è la volontà, come volontà, come sacco, c'è tanta cosa. Kamata hat lange schon das Wort gesagt. Ich sage, dass Festung des Problems reinigen, das sei in sich nach Kopenhagen der Reinigung sehr bereit. Und ich sage, wie gehen die Argumentationen, bewegen sich einmal da und da, manchmal in einem Punkt des ganzen Festungs ab. Und ich sage, dass ich etwas finde. Zunächst einmal kann man ja von der Festung zwei Punkte herausholen, die der Thema schon auch gewissermaßen angedeutet oder ausgeführt hat. Einmal spricht von Doppelhaus und der Unterscheidung zwischen der Askese im Sinne der Algen und der Tugend. Die Tugend besteht darin, dass man jetzt darauf verzichtet, seinen Zielen über seinen Zeit hinaus zu bejahen, das heißt auch die Mitmenschen zu bereinigen. Wenn man das tut, dann ist das Gehälter nicht zugenommen. Aber das ist immer noch keine Freiheit, keine Ausgabe, weil er wenigstens seinen Leib bejaht, nur solche Theorien, die nicht erlaubt den anderen Leib anwenden. Zweitens, eigentlich Heiligkeit beginnt so, wo diese Verleihung des Tieres nicht nur gegenüber den anderen Leibern liegt, damit, sondern auch gegenüber der Geschichte. Und das ist jetzt wieder auch das Ziel. Aber man kann auch sagen, wenn einmal einer Tugend hat, der geht und so die Richtung zur Verleihung des Willens und sich selbst im Blick hat, der hat so den Lehrer.